piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Da quando suo marito è morto il 26 luglio del 2013 in un incidente causato da un pirata della strada, un camionista turco che è piombato sulla loro auto in coda sull'autostrada, lei, Marina Fontana, insieme a decine di parenti di altre vittime della strada, si batte affinché il reato di omicidio stradale diventi legge, con l'introduzione di pene più pesanti da 16 a 21 anni rispetto all'omicidio colposo e la revoca a vita, l'ergastolo della patente. Marina chiede tempi certi, per questo ha scritto anche al Premier Renzi che nel giorno del suo insediamento al Senato aveva ribadito l'impegno del governo ad approvare rapidamente il disegno di legge di cui si parla ormai da 4 anni. Parole al vento, tante parole al vento, tanti slogan di tanti politici. Noi siamo qui, vogliamo una legge che sia veloce, che serva da... Questo accadeva parecchio tempo fa. La legge sull'omicidio stradale poi è stata fatta, sono 4 anni che è in vigore, più o meno 4 anni, del marzo 2016. Cosa è cambiato nel frattempo? Oggi cerchiamo di capire un po', dati alla mano, cosa concretamente, radicalmente sia cambiato. Quello che sembra, una mia impressione che vorrei confrontarmi poi con chi mi ascolta, che non è molto cambiato l'atteggiamento delle persone che stanno alla guida, perlomeno non sembrano particolarmente colpite dal deterrente che una legge con degli inasprimenti di pena, con una maggiore attenzione, dovrebbe in qualche maniera aver provocato. Ma lo dico per esperienza personale. Io l'altra sera, tornando a casa, era abbastanza tardi, per Roma, un venerdì sera mi sembra, c'erano due ragazzetti completamente fatti, totalmente fatti, con lo stereo a palla, che si agitavano, anche il guidatore, in maniera totalmente convulsa, come se fossero in discoteca o fossero in un posto dove si ascolta musica e si accompagna con il corpo, il ritmo incalzante alla musica. Nulla di particolarmente riprovevole, secondo me, se non per il fatto che lo facevano mentre uno guidava, e quindi era estremamente rischioso e pericoloso. L'ho seguito per 1 chilometro circa, sono sempre stati uguali, anche i semafori si fermavano, continuavano a sbattersi dentro la macchina e poi continuavano. Altresì non vedo grande differenza dall'entrata in vigore della legge per le persone che in maniera compulsiva devono parlare con lo smartphone in mano all'orecchio. Ora ogni smartphone è dotato di un sistema di viva voce, per emergenza potrebbe essere usato quello, tutti abbiamo dei fantastici auricolari anche wireless che sono strafighetti per andarci in giro per strada, ma metteteli quando guidate, non si sa perché quando guidate dovete tenervi il telefono in mano attaccato all'orecchio, sembra impossibile, immancabile, si vedono ai semafori, si vedono agli incroci, sembra che il telefono sia un accessorio assolutamente inscindibile dal suo contatto con l'orecchio quando si guida. La mortalità degli incidenti, l'incidente del sabato sera, i ragazzi, beh, se ne parla quando ci sono dei flussi emotivi particolarmente forti. Uno di questi l'abbiamo registrato e anche noi raccontato nei limiti in cui questo fa parte del sapere soltanto qualche tempo fa. Si chiamavano Gaia e Camilla, le due ragazze di 16 anni investite nella notte tra sabato e domenica a Roma. Avevano scorso la serata a Ponte Milvio, nella zona dei locali della Movida, la procura ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale. Un atto dovuto in questi casi, mentre il giovane alla guida, dopo aver prestato i primi soccorsi, è stato portato all'Umberto I sotto shock. Qui è risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici, un primo esame che stabilisce la non negatività, ma che non indica il livello dei test. Ricordate, la narrazione tragica di Gaia e Camilla ha occupato le cronache dei giornali per giorni, per settimane, un episodio terribile, luttuoso, angoscioso per le famiglie coinvolte, per i protagonisti coinvolti, che però è rimasto stranamente, singolarmente, nell'emotività generale per parecchio tempo, come se fosse un episodio con delle caratteristiche singolari, se non per il fatto che è avvenuto nel teatro comunque della Movida romana, e più o meno nell'area di interesse e di residenzialità probabilmente di gran parte dei giornalisti, dei quotidiani nazionali, e quindi probabilmente tutti sono sentiti coinvolti sulla loro pelle. Non si parla più di Gaia e Camilla, di incidenti si parla nella consuetudine, preuscito dall'immaginario generale. Ecco, questa legge che abbiamo detto ormai a 4 anni, presenta però degli aspetti che sicuramente sono stati positivi. Oggi il giornale ne fa un'inchiesta, il quotidiano Il Giornale fa un'inchiesta dettagliata fatta da Daniela Uva, che fa un po' il bilancio, ci fa la mano tutte le grafiche davanti, su quello che è stato il bilancio rispetto a questa legge. Abbiamo la collega al telefono, Daniela Uva, buongiorno. Allora, cominciamo a vedere la tua impressione generale rispetto ai dati che poi entreremo nello specifico. Mi sembra di sintetizzarla sul fatto che la legge sì ha avuto, questa almeno è la mia impressione, ma se ho letto male più o meno quello che emerge anche dalla tua inchiesta, la legge è diventata più aspra, ci sono delle pene più dure, c'è una maggiore attenzione, però in media l'automobilista italiano non si pone grandi problemi rispetto a questo fatto. Sì, è così, effettivamente i dati intanto sugli incidenti stradali dal 2016, quindi dall'anno dell'entrata in vigore della legge a oggi, non sono diminuiti in modo così eclatante. Parliamo di circa 3.000 incidenti in meno dal 2016 al 2018 e di circa 200 incidenti mortali in meno nello stesso arco di tempo. Ci si poteva aspettare forse qualcosa di più. Fai una riflessione che ti viene un interesse nei tuoi ospiti, che un dato che non avevo mai pensato, che fra il 2015 e il 2018 gli incidenti stradali calano, ma gli indicatori dicono che questo accade perché c'è una maggiore crisi, cioè gli italiani hanno meno soldi, vanno meno in macchina, fanno meno incidenti, probabilmente si strafanno anche meno. Dal 2019 ricominciano ad aumentare perché in qualche maniera rigira qualche soldo in più. Su questo dato che riflessione hai fatto? Ecco, appunto questo è un dato intanto che mi è stato appunto offerto da un esperto, quindi mi ha fatto riflettere molto. Sì, Carlo Polidori è presidente dell'Associazione Italiana Professionisti per la Sicurezza Stradale, esatto, quindi è un dato corroborato da una fonte certa. Ecco. Esatto, e appunto mette in evidenza come effettivamente nei primi sei mesi del 2019, poi sono gli ultimi dati diciamo disponibili, gli incidenti sono ricominciati a un ritmo molto serrato, circa 9 incidenti al giorno, e nello stesso arco di tempo, nel 2018, erano stati il 25% in meno. Quindi vuol dire che comunque i dati consuntivi, quando saranno disponibili, potrebbero essere estremamente più elevati. Questo vuol dire che la legge da sola evidentemente non è sufficiente, perché a causare gli incidenti non è solo la paura, evidentemente, cioè non è solo la non paura di andare in prigione, quindi chiaramente non è solo la paura di una pena a poter evidentemente risolvere la situazione, ma ci vuole una cultura differente, appunto la cultura magari di non stare. Sì, perché io vedo le infografiche sul tuo giornale. Alla fine le persone arrestate dal 25 marzo 2016 sono state 67 in flagranza di reato, non sono poi tantissime se pensi bene rispetto a quello che noi pensavamo, c'era il terrore generale, e adesso ci sarà una sorta di controllo poliziesco sui comportamenti e la guida. Io mi ricordo che abbiamo seguito l'iter della legge, c'era un senso generale come di fastidio, e ricordo al nostro pubblico di chiamare all'800240024 perché vorremmo sapere anche delle vostre valutazioni secondo la vostra esperienza di guidatori, di autisti, di automobilisti, quello che vedete, osservate. Pensate che la legge abbia avuto un effetto deterrente? Questo è il punto, come sta dicendo appunto la collega Daniela Uva. In realtà la legge ha inasprito le pene, ha fatto una normativa più stretta, ha determinato quelli che sono i comportamenti più rischiosi, però in realtà non è bastato, o non è stata ben comunicata, o in realtà certi comportamenti sono talmente ormai incorporati nel guidatore medio italiano che non ci si fa più caso. Ecco, quali sono i comportamenti, Daniela, che dalla tua inchiesta emergono come quelli più a rischio? Allora, sicuramente l'abuso di alcol e sostanze stupefacenti, anche se poi dai dati emerge che in realtà una minima parte degli incidenti è causato da questo genere di comportamenti. Sicuramente la maggioranza degli incidenti, chiaramente non sono tutti mortali, è causata intanto dal cellulare, quindi dalla distrazione dal cellulare, ma anche dalle altre tecnologie, navigatori satellitari, qualunque cosa. Ecco, sul cellulare non trovi singolare che non ci sia stato ancora una campagna come una volta erano quelle di pubblicità Progresso, una campagna seria, concreta su... Ovviamente questo confligge con chi poi li vende i cellulari o vende le connettività, perché mi sembra strano che non ci sia stata una campagna di educazione mirata proprio sul fatto che si rischia la vita propria degli altri tenendo il cellulare in mano all'orecchio, che è uno dei comportamenti, basta fermarsi un attimo per strada e osservare la gente che passa nelle città, ma anche nelle strade di collegamento. L'italiano in media preferisce tenerselo all'orecchio, non sa perché, ha degli auricolari da 300-400 euro wireless, che però li usa per andare per strada quando non ci sono bisogni, anzi è pericoloso averli in macchina, non sa perché non li mette. Tu che risposta ti dai a questo? Effettivamente sì, manca una reale informazione, così anche come emerso dal nostro lavoro. Comunque ci hanno detto in più parti che occorrerebbe cambiare completamente l'approccio anche in scuola guida, nel senso che ti insegnano a usare meccanicamente l'auto, però non ti insegnano, come invece avviene in altri paesi europei, a valutare il rischio, a riconoscere il rischio, perché la maggior parte degli automobilisti, quando si mette alla guida, non pensa che farà un incidente, né tantomeno lo vorrebbe causare. Però chiaramente poi certi comportamenti, anche il non mettere la cintura di sicurezza, sono talmente radicati che non ci si fa caso, e quindi c'è una sottovalutazione del rischio e una sopravvalutazione delle proprie capacità invece di gestirlo. Allora, io me ne sono reso conto, questa è una cosa che consiglio anche agli ascoltatori. Una volta mi sono fatto quei corsi di guida veloce che fa l'ACI all'autodromo di Vallelunga. Ti danno le macchine, tu veramente puoi andare velocemente su dei percorsi artificialmente accidentati, cioè una strada bagnata, una strada sdrucciolevole, improvvisamente ti sei davanti una barriera che potrebbe essere un ostacolo improvviso. Tu ti rendi conto, anche a una velocità che apparentemente sembra limitata, 70-80 km all'ora, quanto ci mette una macchina per frenare in momento di emergenza? E ti accorgi una distanza grandissima, ti accorgi che la distanza di sicurezza è qualcosa che noi non valutiamo veramente, non ci rendiamo conto. Quando improvvisamente trovi anti un muro d'acqua che deve simulare un muro, e tu cosa fai in quel momento? Per evitarlo, per non impattarlo, per frenare, ti rendi conto, ci vai a schiantartici sopra comunque. Probabilmente bisognerebbe fare dei corsi più approfonditi su quello che è il rischio di quando si guida, soprattutto legato anche al fatto, alle cattive abitudini. Non mi risulta a me che nelle autoscuole insegnino o si dica esplicitamente che non vada usato il telefono cellulare mentre si guida, perché siamo un'abitudine abbastanza diffusa. Mentre preghiamo un attimo Daniela Uva di rimanere in ascolto, ricordo la collega che ha fatto l'inchiesta per il giornale Oggi, una bella inchiesta approfondita con tante cifre, tanti dati su quello che sta accadendo in Italia a 4 anni la legge. Abbiamo al telefono l'avvocato Gianmarco Cesare, che è un ospite che ci ha seguito dalle prime avvisaglie che qualcuno voleva questa legge, perché è l'avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Avvocato Cesare, buongiorno. Allora, non so se l'hai visto oggi l'inchiesta del giornale, però magari possiamo fare anche dal suo punto di vista un bilancio. Quello che viene fuori è che in realtà la legge si è servita, senz'altro è stata una legge illuminata, ma il comportamento in media degli italiani non è così radicalmente cambiato. Insomma, le cattive abitudini sono rimaste tale quali, come se il deterrente della pena non fosse sufficiente. Guarda Gianluca, ne ho parlato anche all'inaugurazione dell'anno giudiziario intervenendo, dicendo proprio questo, che la legge ha cambiato radicalmente il sistema sanzionatorio ed ha creato una grandissima sensibilità da parte dei magistrati e dei pubblici ministeri nei confronti dell'omicidio stradale, che prima era considerato un reato di serie B. È quello che un po' chiedeva l'Associazione dei Familiari Vittime di Incidenti. E che chiediamo l'associazione. Considera che in effetti tante condanne che prima sarebbero state veramente miti non lo sono più state. Tante aule dove prima il pubblico ministero non ci sarebbe mai stato, mandando alternativamente dei PM onorari, invece hanno avuto proprio la presenza del titolare dell'inchiesta. Quindi c'è stata la considerazione proprio dell'omicidio stradale come reato di omicidio. Vabbè, questo vuol dire che la giurisprudenza si è evoluta in questo caso, comincia a considerare che avere sotto il sedere un'automobile equivale ad avere un'arma se uno la usa in maniera impropria, in maniera sbagliata. Questo mi sembra già un passo avanti. Quello però mi interessa sapere, prego i miei ospiti di pazientare soltanto un istante perché adesso diamo la linea, è quanto o cosa potrebbe essere fatto ancora, questo è un po' il mio pallino, per una campagna di informazione reale, di civilizzazione del guidatore, perché poi sapere che la pena è aumentata non mi sembra che abbia cambiato profondamente quelle sono le cattive abitudini della guida. Ci fermiamo un istante. Melog. Abbiamo avuto un una persona, un ultraottantenne, che tamponando una vettura durante un incolonnamento ha causato la morte di una giovane donna. In questo caso, pur non essendo la persona in stato di ebbrezza o d'assunzione di stupefacenti e pur non avendo violato determinate condotte come il passaggio del semaforo rosso o inversione di senso di marcia, ha comunque violato norme del codice della strada. In questo caso si applica un'ipotesi non aggravata, il soggetto non è stato arrestato in virtù del suo comportamento, dell'età e di altri elementi previsti al codice procedura penale, ma è stato indagato per il reato di omicidio stradale e oltre alla sospensione della patente seguirà in questo caso la revoca, che non potrà essere inferiore a 5 anni. È indagato per omicidio. Oddio, in questo caso forse bisognerebbe anche dare un'occhiata alle commissioni che giudicano il rinnovo delle patenti alle persone molto anziane, perché l'ho visto, devo dire, è un pro forma, nessuno ci fa caso. Io capisco che tutti ci arriveremo, io ho già un piede nella fossa, figuriamoci, al prossimo rinnovo già mi diranno nonno, tornate a casa e va col triciclo, sono d'accordo. E dirò avete ragione perché posso rappresentare un problema. Ma vedere signori anziani, tremolanti, chiaramente non troppo luce, comunque senza nessun problema è rinnovata la patente. Non so se avete visto quel filmato che stava girando proprio in questo fine settimana. Un novantenne ha imboccato un'autostrada contromano, ha camminato non so quanti chilometri con gli autotreni che gli venivano di fronte e gli suonavano, poi si è accorto che era contromano, ha fatto un'inversione, è passato all'altra parte dell'autostrada e se ne è tornato indietro. 90 anni. Ora, a 90 anni io spero di arrivare particolarmente lucido, ma non credo che avrò forse la lucidità di avere una guida sicura e tranquilla come quella che ho oggi. Forse questo è un altro punto. Poi su quello che ho detto io prima riguardo una mia riflessione sui comportamenti criminali, perché così sono, questi sono, che ancora hanno gli italiani quando guidano, come tenere il telefono in mano accanto all'orecchio o strafarsi di alcol o di altre sostanze, dico, ci sarebbe bisogno, secondo me, nelle scuole guide di una disciplina in più, che è qualcosa che corrisponde un po' all'educazione civica nelle scuole, che non c'è più, infatti, per spiegare anche questi comportamenti. Chiama subito Massimo, che penso sia titolare di un'autoscuola, per dire che lui queste cose le fa. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, mi spieghi esattamente la parte di formazione che lei fa relativa a questo problema delle cattive abitudini alla guida. Sì, tutte le autoscuole hanno un insegnamento per quanto riguarda lo stato psicofisico del conducente, le cause più frequenti dell'incidente, anche perché sono riportate nei quiz. Noi siamo 8-9 ore al giorno in centro, in mezzo al traffico. E io noto che quello che veramente manca è manca un controllo su strada. Cioè io noto minimo 50-60 persone al giorno con il telefono in mano. Esattamente l'impressione che ho io, Massimo. Forse c'è una difficoltà a fermarli tutti, perché è sufficiente a Roma fermarsi un attimo a un incrocio. Un incrocio urbano qualsiasi. Le giuro, in 10 minuti ne vede subito 7-8, sicuramente. Ho capito, ma a Roma ci sono però per esempio quelle telecamere che fanno la foto quando uno viaggia sulle corsie preferenziali. Potrebbe essere sfruttate anche per questo motivo. Uno. Due, a mio avviso ci sarebbe una grossa necessità, appunto, specialmente per gli anziani che vengono in autoscuola e ci chiedono ma come si circola in una rotatoria? Ma chi si dà la precedenza in una rotatoria? Le TV dovrebbero fare delle specie attraverso i telegiornali, delle piccolissime finestre informative semplici, di uniformare la circolazione, di spiegare questi comportamenti. Però mi dà ragione, Massimo, che ci vorrebbe una formazione un po' più specifica sui comportamenti, perché probabilmente oggi sapere come funziona un carburatore, un motore a quattro tempi, visto che è tutta una centralina, serve sì, ma non è proprio così fondamentale quanto sapere che quanto sia pericoloso telefonare mentre si guida o non mantenere una distanza di sicurezza o non tenere conto dei pneumatici consumati quando ci sono delle strade non perfettamente asciutte. Beh, ma ci sono le domande sulle cause di incidenti stradali. Ripeto, ormai sul motore si tratta solo un po' di inquinamento, non è più come una volta le candele, il carburatore, facevano vedere le foto. Ormai è stato tolto tutto, però a mio avviso se non c'è un controllo capillare e la gente, chi sa che tutti sanno che è pericoloso guidare con un cellulare, tutti sanno che è pericoloso distrarsi o guidare in stato di ebbrezza, ma purtroppo sa, l'italiano va colpito nel portafoglio prima cosa perché rispetti le regole. Lei pensa che ci sono persone che mi stanno scrivendo adesso, vedo i messaggi, dico, ma anche le cinture di sicurezza nei centri abitati è esagerato, gente ancora considera un onere, un fastidio mettere le cinture di sicurezza, lei vada E va detto adesso, non è che voglio discriminare, ma a certe latitudini del nostro paese ti prendono in giro se metti la cintura di sicurezza, poi andi a giro la cintura di sicurezza, ti guardano come si guardano sfigato, e mi sembrava una cosa che ormai doveva essere acquisita. Sentiamo Marino, anche Marino, un altro ascoltatore. Sì, buongiorno. Sì. Posso parlare? Certo. Grazie. Niente, forse dirò una cosa che non so se è giusta. Io ho nelle spalle 4-5 milioni di chilometri, ho 69 anni, non ho mai messo sotto un pedone per fortuna, perché ho avuto fortuna. Beh, se lei va sull'autostrada il pedone è un po' difficile metterlo sotto. No, ma dico, ho fatto le strade normali. Dicevo, parecchia responsabilità è anche dei pedoni, cioè il pedone non è educato a stare in una strada. Scende da un marciapiede, mi è capitato tantissime volte, e distratti al 100% scendono e attraversano, e se uno è lì con la macchina a 10 metri cosa fa? Lo mette sotto. Sì. Che dopo ci vuole dare la colpa. Questa è una delle cause di incidente stradale che può avvenire. Il caso che abbiamo citato di Gaia e Camilla erano dei pedoni che attraversavano una strada, tutto da accertare se potevano attraversarla, se ci fosse stato un semaforo funzionante, se hanno tenuto conto del semaforo gli automobilisti, però quello è un caso. Ma non stiamo parlando di altri sistemi. Se uno va col telefono attaccato all'orecchio e parla concitato, magari con una mano solo sul volante, con l'altra cambia, fa di tutto, poi fuma e fa dicendo, già in sé è un comportamento pericoloso. Allora, tutto è partito da un'inchiesta che ha fatto oggi il giornale, un'inchiesta di Daniela Uva, che abbiamo ancora al telefono. Daniela, il senso di queste telefonate conferma un po' quella che è la tua inchiesta? Sì, assolutamente sì, perché effettivamente appunto conferma come alla base, insomma, di tutto il problema ci sia una questione appunto culturale. Il fatto stesso che ci si sorprenda ancora oggi dell'utilità delle cinture di sicurezza in città, insomma, la dice lunga su quella che è il gap culturale che evidentemente c'è ancora. Sentiamo allora Gianmarco Cesari. Mi sembra che quello che viene fuori, poi possiamo anche integrare i dati che abbiamo noi già fornito. I dati comunque dicono ben poco, perché alla fine la soddisfazione delle famiglie di vittime da incidente stradale è quello che è entrata, diciamo, nella mentalità, nella sensibilità dei giudici, il fatto che sia un delitto a tutti gli effetti, non sia una casualità, una distrazione, un problema tecnico, no, una responsabilità in più per chi guida. E su questo siamo d'accordo, avete avuto la giusta soddisfazione che cercavate. Però dal punto di vista dell'utilità, a questo punto, cos'è che manca? Qual è il pezzo che manca, secondo lei? Manca soprattutto una responsabilità delle istituzioni nel garantire i controlli sulla strada, perché constatato che il modello culturale dominante è quello della violazione delle regole del codice della strada, tanto è vero che nell'ultimo anno, pensa solo che abbiamo avuto 685.000 violazioni nel 2019 dell'eccesso di velocità. Bene. Allora, preso atto di questo, è chiaro che bisogna aumentare i controlli sulle strade, bisogna dare risorse per le pattuglie sulle strade con la tecnologia più avanzata per la deterrenza, ovvero il TruCam, un telelaser che misura la velocità, e lo Scout Speed, due strumenti tecnologici che servono anche a identificare... Aspetta, ce li spieghi, perché non è detto che tutti sappiano di che si tratta. Sì, guarda. Questi strumenti sono già in dotazione alla Polizia Stradale? Assolutamente sì, anche a polizie municipali sono in dotazione. I comuni possono attivarsi per dotare le proprie polizie municipali di questi strumenti. Me li descrivi e spieghi cosa serve. Un telelaser che misura la velocità, una pistola telelaser. Quindi non c'è bisogno di mettere l'autovelox? Basta. No, ma vedi, l'autovelox fisso è una misura odiosa che serve a far cassa soprattutto e non ha una deterrenza. Sì, l'idea è un po' questa, che lo mettono nei momenti, nei posti più nascosti. Poi, ma non solo, è pericoloso perché crea rallentamenti improvvisi e tamponamenti e incidenti anche gravi. Quello che serve, la pattuglia, proprio il personale di polizia, munito di queste pistole telelaser che misurano la velocità. Non solo, lo scout speed, che è uno strumento che si mette proprio sulle auto della polizia, serve anche a identificare chi per esempio usa il telefono per messaggiare alla guida, che ricordiamo che la distrazione dall'uso del smartphone per messaggiare adesso è una delle cause principali degli incidenti stradali. Sì, ma non è più che si telefona oggi la gente risponde su WhatsApp, su Telegram, esatto. Quindi è quello il problema. Se non ci sono controlli, la strada stradale perdura, perché purtroppo il conducente medio viola le regole della strada e le continua a violare per modello culturale. Ma a te risulta che questi strumenti qualcuno li stia usando? Assolutamente sì, guarda, basta andare su YouTube, digitare Truecam o Scout Speed e vedrai come che vengono spiegati. E quindi si tratta di assumere una responsabilità nel garantire controlli e da parte del governo di finanziare le forze di polizia per garantire questi controlli stradali, dare risorse, a incentivare le risorse per i controlli. Solo così potremo contrastare questa strage. E poi un modello culturale di vera lotta all'alcol, di vera lotta all'alcol, perché se continuiamo a dare bottiglie al supermercato ai minorenni, se continuiamo a servire birre in grande quantità in tutte le occasioni di festa e poi non ci lamentiamo se poi queste persone vanno alla guida perché nessuno le controlla quando si siedono. Ma fermiamoci solo un attimo, Gianmarco, perché stai toccando i punti che ormai vanno oltre rispetto agli aspetti normativi attuali, che più di così non credo che si possa fare lavorando sulle leggi. Adesso bisogna entrare in un aspetto culturale che è molto più difficile anche da definire. Ci fermiamo un istante. Cerchi un gestionale in cloud? Scarica l'app da fluentis.com e prova gratis per 30 giorni. Vi presenta... Melog. Camminavano al buio lungo il ciglio della statale per tornare a casa. Una macchina non li ha visti e li ha presi in pieno. Due uomini di 33 e 38 anni, marocchini regolari e residenti a Bellusco, sono morti sul colpo. Uno sbalzato in questo fosso, l'altro in mezzo alla strada. Alla guida della macchina una ragazza, 21enne, ora ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. È risultata positiva all'alcol test. Non ci sono segni di frenata sull'asfalto, sembra non averli proprio visti, anche se dai primi rilievi potrebbe aver superato... 00024, abbiamo iniziato a parlare dei numeri di incidente stradale dopo 4 anni di applicazione della legge sull'omicidio stradale. Stiamo arrivando a quello che è forse la parte fondamentale di questa nostra riflessione, è una necessaria e reale formazione capillare degli automobilisti di tutte le categorie, di tutte le età. Per qualcuno è un richiamo alla memoria di quelle che sono le regole, per altro è una parte, un modulo integrativo di quella che è la normale programmazione delle scuole guida. Ci ha risposto prima il signore che ha una scuola guida, ma ci sono i test. Sì, ci sono i test uno li fa, li impara, mette una croce, ma non è sufficiente. Formare una persona vuol dire trovare argomenti convincenti, tematiche convincenti, moduli convincenti per spiegare alle persone, come per convincere le persone, dissuadere le persone a fumare troppo. Ci sono foto di polmoni cancerosi putrefatti sui pacchetti di sigarette, forse qualcosa possono anche servire, raccontare e spiegare quello che accade quando c'è un incidente stradale. Cesare, buongiorno. Buongiorno a voi. L'ascolto. Sì, è proprio, io volevo proprio intervenire sulla formazione. La mia esperienza personale, e parlo di 30 anni fa, avevo 16 anni, sono stato in college in Inghilterra, il sabato c'era un'ora di educazione stradale, perché si spiegava al giovane che cosa succedeva a non mettere la cintura, a bere e a tutti quelli che erano le problematiche o come guidare nel bagnato. E quando tornai, con mio padre che non usava la cintura... Basterebbe vedere qualche foto di incidente stradale, cosa succede a un bambino senza seggiolino dal sedile posteriore quando viene lanciato una palla da cannone contro il parabrezza, solo per far capire. Assolutamente, racconti di chi ha avuto gli incidenti, foto molte crude, anche se avevo 16 anni, ma mi ha insegnato che non avevo bisogno di una multa per mettermi la cintura. Era la mia cultura, l'insegnamento che ho ricevuto, la follia di non metterla. È questo che noi dobbiamo comprendere. Come prima si parlava della velocità, l'autostrada più sicura al mondo è quella senza limiti di velocità. Bisogna sapere quello che noi stiamo facendo, guidare e come guidare. Quindi è tutta una serie di fattori che noi purtroppo... Diciamo che c'è uno spazio enorme da riempire in attività di formazione e di comunicazione in questo caso. Michele, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo intervenire a favore dei pedoni. Sì, onestamente Michele, non l'ho detto con crudezza prima, non voglio offendere nessuno, ho detto una cazzata madornale con quell'ascoltatore riguardo al tema che stiamo trattando. È chiaro, ci sono i pedoni sventati, ma stiamo parlando di tutt'altro argomento, non è il pedone che non rispetta. Sì, ci sarà anche quello. Dica lei Michele, il suo punto di vista. Io sono non vedente e ogni giorno, sia per recarmi al lavoro che peraltro, cammino o col bastone bianco identificativo per i non vedenti, oppure col mio cane guida. Io mi accorgo che ogni volta che devo attraversare un attraversamento su strisce pedonali, cioè non così a caso, le auto non si fermano, nonostante metta cioè nemmeno una persona col bastone bianco e il cane guida è sufficiente a dare un segnale di attenzione. Questo ci sono delle tecniche che il non vedente solitamente impara alza il bastone esatto. Sì, magari non troppo alto, però diciamo lo rende, lo mette in maniera molto visibile. A me più di una volta hanno rotto il bastone passandogli sopra con le ruote. Un altro pericolo sono le auto elettriche. Perché sono silenziose, non si sente nulla. Perché sono silenziose, molto spesso te le trovi. Quello che è l'aspetto più bello di quelle macchine è che uno, ecco, dal suo punto di osservazione non sembra una battuta, e che se le sente addosso non le sente arrivare. Ecco. Esatto, io metterei un campanellino davanti, insomma un segnalatore acustico, anche se mi sembra di aver capito che ormai è legge, però parlo di tutte le auto già in circolo. Io penso che la tecnologia in questo campo può aiutare molto le persone non vedenti per strada. È chiaro, il segnalatore probabilmente deve essere tale da poterle permettere di sentire a lei con un segnale acustico lo spazio utile che è invaso, cioè la macchina che sta per arrivare, come un po' i segnalatori di retromarcia che abbiamo sulle nostre macchine. Viene in mente adesso, io se faccio retromarcia quando comincio a essere a un metro da un ostacolo mi comincia a suonare. Ecco, la stessa cosa, dovrebbe esserci qualcosa che aiuta a segnalare alla persona che non vede che c'è un mezzo che sta arrivando, che arriva silenzioso. Lei ha detto una cosa molto giusta, perché nessuno ha calcolato probabilmente questa difficoltà ulteriore. Il nostro benessere generale di avere meno rumore per le strade è un problema in più per chi non vede, che la macchina non la sente. Ma il semaforo sonoro funziona, in media ci sono questi semafori e sono un sussidio utile per lei? Sì, sono, purtroppo non ci sono in tutte le città, non ci sono tutti gli incroci, però quando ci sono si usano. E come l'unico appello che vorrei fare, se mi è concesso, a tutti, schiacciare il pulsante che fa suonare il segnalatore acustico non fa diventare verde prima il semaforo. Il pericolo poi è che a furia di usarlo in maniera non corretta, questo si possa rompere, poi se arriva un non vedente dietro non lo può usare. E rilancio l'idea, se qualcuno ci ascolta, che cercare un dispositivo incorporato dal pedone non vedente che gli permetta di avvertire le macchine che stanno sopraggiungendo. La tecnologia c'è, non è una tecnologia difficilissima, però è un accessorio che nessuno ha pensato di mettere insieme i componenti per dotare di questo strumento di sicurezza. Grazie Michele. Silvano. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io volevo intervenire dopo 40 anni di esperienza come insegnante e istruttore di scuola guida, portando una mia idea, che è quella che alle scuole guide manca sostanzialmente la possibilità di fare da filtro sui soggetti che sono potenzialmente autori o potrebbero essere autori di un incidente stradale. Voi vi accorgete che uno è un po' stronzo e dice poi come faccio a segnalarlo? Questa è la sintesi. Ma certo, guardi, io potrei citare diversi casi, uno in particolare dove il genitore venne da me a dirmi: Silvano, falli prendere la patente perché lui già gli ruba le chiavi, va in giro con la macchina, almeno se ha la patente, se succede qualche incidente in qualche modo siamo coperti. Lui prese la patente, ma fece 4 morti, cioè era già così questo soggetto. Un'altra volta alle 10 io sì, però non si può fare una diannosi preventiva. Ho capito, una diannosi preventiva pregiudiziale, diciamo, dovrebbe essere un po' più accurato l'esame che dà un tracciato di idoneità psicofisica del soggetto. Grazie avvocato Gianmarco Cesare, oggi l'abbiamo un po' sacrificato, ma era importante sentire anche gli aspetti culturali come emergono dalle esperienze dei nostri ascoltatori. Alla prossima.